Benvenuti, episodio numero, non l'ho detto prima. Oddio, non l'hai detto? Adesso non lo sappiamo più che episodio è. Aspetta. Sarà tipo 63? Potrebbe essere 64 questo. 63 era quello vecchio. Ah, è vero, sì. Ovviamente registriamo... Sì, perché... sì. 62 era... Mads Mikkelsen, esatto, i suoi, sì, cordiali amici. E tra l'altro, sì, questa è la terza puntata che registriamo senza nessuno. Solo io e Jacopo. E niente, le vacanze estive. E, va bene. E, quindi avete già sentito Jacopo, ci sono anch'io e non c'è nessun altro, anche perché Andrea mi sa che è in ospedale davvero a questo punto. Wow. Quando ascolterete questa puntata magari sarà già andato. Porca troia. Il film di cui parliamo stasera, allora intanto la scorsa puntata abbiamo fatto un film sabbio perché appunto Roberto ci ha fatto vedere un film sabbio. Questa settimana facciamo un film di fantascienza perché Andrea voleva fare un film di fantascienza, in particolare Cyberpunk, quindi la cosa fa ancora più ridere, ancora più surreale. E comunque, cioè, aspetta, quindi 2 settimane abbiamo fatto 2 episodi che noi non abbiamo scelto? Esattamente, sì. E tra l'altro, adesso non voglio dire che sono entrambi orrendi, però... Sono entrambi orrendi, lo dico io. Un pochino. E, allora, praticamente la storia di questa puntata è questa. Ovviamente io chiedo ai miei, fatto le virgolette, ospiti, visto che alla fine l'unico che c'è è Jacopo, se qualche idea o se hanno delle preferenze sugli episodi futuri. E più o meno a turno ognuno propone qualcosa. Andrea questa volta sembrava carico, più o meno, per quanto possa sembrare carico Andrea, e aveva proposto un film. Oddio! Attenzione! Questa è una sorpresa! Oh mio Dio! Andrea. Buona. Cazzo! Non vedi, solo sei vivo... Cioè, ti stavo nominando e stavo parlando male di te in diretta e tu sei entrato. Va bene, sì, quindi... Io e il mio principio di infarto siamo... quindi non solo eri carico, era talmente carico che a momenti ci muori per questo episodio. Quindi Andrea non è in ospedale. Tra l'altro questa è una bellissima sorpresa perché noi non sentiamo Andrea da tipo 3 settimane. Cioè, l'ultima cosa che ho sentito era Andrea che diceva Johnny Mnemonic e poi è scomparso. Esattamente. Stavo raccontando la storia di questo episodio e praticamente dicevo che a turno io chiedo un po' in giro che cosa volete vedere, se avete preferenza. La scorsa settimana è toccata a Roberta, che non c'era perché abbiamo registrato prima di questa puntata, e su un film che spero che tu non abbia visto, Andrea, perché è veramente orrendo. L'hai visto? Dimmi che l'hai visto. Non so manco qual è il film. Okay, grazie. Grande. Non c'è il film? No. Il sacrificio di il Salla. Ah, dei cervi morti. No. Sì, guarda, per quanto c'entra il titolo col film, direi che puoi mettere il titolo che vuoi. E, allora, dicevo che Andrea ha voluto fare un film di fantascienza, una puntata su un film di fantascienza, ma non fantascienza qualsiasi, ma fantascienza cyberpunk. Tra l'altro ha deciso anche lui il titolo del film. Adesso non posso più dire che non si è presentato, che poi era la cosa più divertente del mio monologo, ma quindi si è presentato. Il titolo del film è Johnny Mnemonic. Intento. Che è un film del 95, e, che credo sia una coproduzione americana-giapponese a sto punto, non sono sicuro, ma immagino. Sì. No, in realtà sì, è una coproduzione americana-giapponese e allora diretta da Robert Longo, che non so cosa abbia fatto nella sua vita. Sì. Questo film non credo esista su Artwork. Allora, tecnicamente il film è canadese-americano, però praticamente è della Sony, quindi anche sì, no, ma infatti le lingue con cui è stato, diciamo, distribuito sono inglese e giapponese, poi ovviamente con tutte le traduzioni del caso, però in realtà non c'è scritto niente di Robert Longo, cioè non riesco a trovare cos'altro ha fatto, comunque sia Robert Longo è basata su una sceneggiatura di un certo William Gibson, No, non è una sceneggiatura in realtà, è proprio, credo sia proprio un libro di fantascienza. E tra i protagonisti abbiamo il ormai super famoso Keanu Reeves, che forse era agli inizi, non lo so, sì, era tipo l'inizio della carriera, e Dolph Lundgren, che è l'attore svedese famoso per i mercenari e per i film d'azione, e che qua... Rocky. Esatto. E, che qua era alla sua, nella sua massima forma, perché interpreta tipo un prete. E poi c'è Takeshi Kitano, di cui che introdurrà Jacopo, e che tra l'altro è credo l'attore più famoso in questo film, insieme ad Ice-T. Che bella questa frase, Takeshi Kitano e Ice-T. Ai tempi mi sa che era l'attore più famoso. In Giappone sicuramente. Tra l'altro Takeshi... sì, che tra l'altro ha un ruolo bellissimo. Takeshi Kitano che è lì principalmente per fare la marchetta al Giappone, e da quello che leggevo, adesso non mi ricordo più dove lo leggevo, hanno rilasciato una versione giapponese di 10 minuti più lunga in cui lui praticamente dice cose in più della sua lore, perché a quanto pare era importante che i giapponesi lo sentissero. La backstory, esatto. Esatto, allora poi ho già detto Ice-T, e poi c'è Dina Meyer, che è l'unica forse che esprime emozioni in questo film, tra l'altro è del suo primo film, quindi forse era ancora giovane con voglia di vivere, e una interpretazione incredibile di Henry Rollins, che è un attore, cioè in realtà non è un attore. No, vabbè, è visto però, cioè io come faccio lo conosco. Sì, ma non è tipo un musicista lui. Sì. Vabbè, e è una sua interpretazione incredibile, tra l'altro super fisicato, il dottore più fisicato che abbia mai visto. Allora, racconto io la trama perché ho qualcosa da dire, tipo una battuta che mi porto dietro da ore e ore. No, vabbè, comunque questo film parla di un futuro molto lontano, che per comodità diremo che è il 2021, tra un anno. E, diciamo che questo film è uscito nel 95, in cui l'idea di internet era molto diversa da quella a cui siamo abituati oggi, e si vede, e forse la maggior parte del pubblico aveva tipo uno, due anni, tre anni, non lo so, io ero già vecchio, però cioè l'idea di internet è molto diversa, quindi non è, cioè, tutto questo premessa per dire che il film sembra una cacata, ma in realtà non lo è, e, cioè lo è per altri motivi, non per questa cosa qua. E in questo futuro la maggior parte della popolazione, credo, non so, non sono molto, è decimata da una malattia, degenerativa, che si chiama Nerve Attenuation Syndrome, o NAS, e qua le battute di Jacopo si spiegheranno. che è una battuta che a quanto pare, allora, nella lore della trama fa venire tipo spasmi nervosi eccetera, la verità è che a quanto pare rende tutti gli attori incapaci di esprimere emozioni per tutto il film. Secondo me non esisteva questa malattia, l'ha messa alla fine apposta quando ha visto cazzo ha fatto cagare. No, è terrificante. Keanu Reeves che all'inizio risponde al televisore, mamma mia, terrificante. È più terrificante del sacrificio del cervo sacro, quella scena. Più horror. Grazie. E, allora, il protagonista è Johnny, senza cognome, che è un corriere, che è un contrabbandiere più che un corriere, che contrabbanda informazioni. Ora, visto che le memorie a quanto pare non si potevano produrre all'epoca, e visto che questo è un film cyberpunk, quindi ci sono innesti artificiali nel corpo, visto che siamo comunque negli anni 90, il suo metodo di contrabbando è farsi mettere un hard disk nel cervello, in modo tale da utilizzare parte della sua memoria biologica, tra virgolette, per trasportare grandi dati di grandi dimensioni. e rapportiamo tutto al 95, diciamo che lui ha la possibilità di trasportare 80 giga, che sono comunque tantissimi, vero Jacopo? Jacopo è morto. Un po' come dire, è un po' come dire un petabyte, che fa, vabbè, che fa ridere perché peto, però... Chiaro. E la trama è la seguente: questo corriere viene ingaggiato da un cliente, che dovrebbe essere uno scienziato, ma non lo è apparentemente. Cioè, non è che non lo è, nel senso che è una svolta narrativa, nel senso che fisicamente non è uno scienziato. Cioè, tu lo vedi e sembra un drogatello di merda. Che gli carica, invece che caricargli 80 giga, gli carica 320 giga di memoria. E quindi questo è molto pericoloso per Johnny, che comincia a avere dei problemi di visioni, cose strane, problemi di cervello, eccetera. E niente, la storia è praticamente di questo corriere che va a Newark, New Jersey, e in una New York e in un New Jersey mezzi distrutti, col ponte di Brooklyn tagliato a metà, che credo sia la cosa più bella di questo film. E niente, si mette insomma in questo traffico, tra cui che comprende la Yakuza, un gruppo di persone che vive nel ponte, che sono tipo i ribelli di Star Wars, e una ragazza che soffre di NAS. E questa è la trama, però dovete guardarlo sto film, quindi non vi voglio dire nient'altro. Ho dimenticato qualcosa, cioè sì, ma nel senso ho dimenticato qualcosa che avrei dovuto dire. Non lo so, questo dipende solo da te. No, nel senso che è un film del 95, quindi in realtà potremmo spoilerare la grandissima, però magari qualcuno di voi lo vuol vedere. Io consiglio di vedere questo film con una buona dose di popcorn e acidi, dei velocipasto, potete guardare questo film. Ah. Eh, cosa? No, volevo dire popcorn e acidi. Però popcorn e acidi, sì. Allora, diciamo che... No, non dico niente. Prima voglio sentire la vostra opinione. Andrea? Andrea, tu ci hai consigliato questo film. Perché? Io non ho consigliato. Io ho detto, voglio vedere questo film perché... Perché ero interessato al tema cyberpunk e speravo di trovare un film del genere, di questo genere, non so, decente. O almeno che, non so, migliore di Blade Runner. Mm. Questo era il mio... Ok. Migliore di Blade Runner. Il mio obiettivo. Non ce l'hai fatta. Ho fallito, questo film è tremendo, e, boh, non lo so. Tra l'altro ricordo che Blade Runner è dell'82, quindi non è neanche colpa degli effetti speciali, di cose strane. No, infatti è... Non so, io ti avrei consigliato Tron delle due. No, in realtà all'inizio volevamo vedere Quinto Elemento. Allora, io avevo suggerito Nirvana, che è stupendo, è cyberpunk, c'è Diego Badantuono. E non so, no, allora fa ridere perché dici, ah, il Gobbo d'Antuono, fa ridere, è veramente bello. Io lo ripeto, non stavo scherzando, Andrea, per favore, credimi. Ok, lo guarderò. Oddio, poi abbiamo detto. Muoio stanotte. Poi abbiamo detto Quinto Potere, no? No, Quinto Elemento. Quinto Potere è un'altra cosa. Però in realtà è meglio questo, cioè nel senso, se uno vuol rimanere nel cyberpunk, secondo me è meglio questo film rispetto al Quinto Elemento. Tra l'altro, secondo me questo film è molto più cult, e in effetti è cyberpunk puro, perché se io dovessi trovare un film cyberpunk puro di quegli anni, appunto, a parte Blade Runner, che comunque è più fantascienza classica, onestamente non saprei. Però no, secondo me ci sta, perché vabbè, no, dimmi tu Andrea, quindi hai visto questo film e cosa hai pensato? Vabbè, come hai detto tu prima, ho visto Velocipastor, come cazzo si chiama, adesso finirò anche questo, non c'è problema. E tra l'altro sul finale ho visto il delfino e sei impazzito. Mamma mia. Il delfino. Che bello quel delfino. Questo podcast, i delfini sono un tema ricorrente. Tra questo, poi Lo so, ho riso tanto, però. Cioè, ogni volta che vedevo Ice-T, non lo so, morivo da ridere. Mi veniva in mente anche Rick e Morty. Ice-T e anche il prete è abbastanza figo. Il prete, mamma, il prete è bellissimo. Che è appunto Dolph Lundgren. No, non lo so. Non so pronunciare i nomi svedesi. Sì. Ah, svedesi mettono la birra sottoterra. Che ridere. No, non saprei un film, cioè se uno andasse a cercare film cyberpunk, cos'è? Ho detto, secondo me Nirvana è ancora uno dei migliori, non che ci sia tanta concorrenza, però non è male, si guarda. Blade Runner del 2017, il primo risultato. Ah, Blade Runner quello nuovo pure abbastanza, sì. Sì, sì, però ah, ma c'è Jared Leto. Upgrade, però, raga, Upgrade è cyberpunk, cazzo. Upgrade, certo, sì. No dai, veramente, è figo. Vabbè, Upgrade. Abbiamo già fatto la puntata, vabbè, ma anche, anche Robocop, cioè, nel senso. Ah, Robocop, non lo so, Robocop. Ghost in the Shell. Un po' come diceva Salla, cioè, non sono cyberpunk puri, però, cioè... È vero. Solo questo è puro, diciamo. È puro. Perché sì, pura. C'entra anche la, cioè, nel senso, le multinazionali, il fattore politico, sociale, il classico tema cyberpunk. Sì, sì, sì, no, è vero. No, questo infatti è un... Cioè, da quel punto di vista il genere è azzeccato. Cioè, noi adesso veniamo da... Tu non c'eri, Andrea, ma veniamo da una puntata... Adesso ricomincio a parlare male di quel film. Non c'era prima. Una puntata di uno stronzo che col fatto che si chiama L'Antimo ha potuto fare... Senere, mettendo roba a caso e dire che quello è un film, cosa ha detto, thriller, quello non mi ricordo, thriller horror. Questo qui invece azzecca, cioè 100% il genere è quello, basta, hai fatto quello. Il problema è che la butta un po' in cacciara. Per me, cioè, questo è una cosa positiva che ha reso un cult, perché alla fine è un po' quello che ha fatto nascere il cyberpunk, penso, no? Cioè, questo film e la storia, vabbè, ovviamente da qui è tratto. Cioè, ha un sacco di carisma, nonostante sia recitato di merda, sia un sacco, cioè, ridicolo, un sacco, cioè... Non so come si dice in italiano, vabbè, un sacco... assurdo, campy, insomma. Però... Però ecco, c'è un sacco di idee che c'ha, un sacco di temi e di cose strane e così, boh. Mi è rimasto simpatico, diciamo, cioè mi sono fatto qualche risata quando era un po' ridicolo. Alla fine in realtà anche, cioè, l'idea e la lore non sono così male. No, infatti, cioè, poi è lì che è nato, no? Cioè, quando ha cominciato un po' a venire fuori... l'internet, a venire fuori... Sì, ecco, volevo dire due robe sapio sull'internet. Allora, in questo film ci sono delle scene di internet, di tipo lui che mette il visore, l'Oculus, e naviga. Ora fanno molto ridere. Però è figo pensare come... E alla fine, cioè, questo film viene prima di Matrix, e Matrix alla fine è quello fatto meglio, di fatto. E cioè, non è direttamente internet, ma no. Questo è tipo, questo è tipo lo stage per lo stage per Keanu Reeves, che sul curriculum ti ha fatto prendere il lavoro per Matrix. Esattamente. No, nel senso che Matrix è, cioè, l'idea di internet che c'è qui è un po' l'idea che avevi prima, cioè che si aveva prima di internet, nel senso tu ti metti il visore e navighi, nel senso che sei esattamente in un'altra, sei proprio in un altro mondo in cui fai questo. Sembra un po', come cazzo si chiama il film di Spielberg, di coso? Ready Player One. Ready Player One. Volevi dire il preside di Community, Dean, che esatto, il viso. Esatto, con la differenza che noi ovviamente sappiamo bene che la definizione di internet sono io adesso che guardo una pagina, ho scritto film di fantascienza del 1996 e vedo una lista di e l'internet è quello. Però negli anni 90 era una roba simile a questa visione qua, ed è interessante perché negli anni 90, nello stesso anno, e nel 95 esce in Italia un fumetto che non è molto famoso, che tra l'altro ha già rotto il cazzo a Jacopo con sto fumetto, che si chiama Hammer. Ah, sì. E che tra l'altro è stato ispirazione di Matrix, ed è un film, ed è un fumetto, ripeto, italiano, e tra l'altro ci sono state anche alcune riedizioni recenti, e in cui appunto il panorama cyberpunk è questo, ed è carino vedere come diversi autori in diversi posti, anche solo Nathan Never per esempio, hanno pensato internet nella stessa cosa, perché cioè in questo modo, perché la visione che si aveva all'epoca di internet era questa roba qua. Poi Hammer è un po' diverso, nel senso che l'hacker può fisicamente entrare su internet, mentre gli altri un po' meno, e però è così che si vedeva il cyberpunk, ed è carino, e Johnny Mnemonic c'entra in pieno la lore. È bello. Infatti, Andrea, ti consiglio, se vuoi vedere leggere un fumetto cyberpunk bello, vabbè, mm-hmm. è un po' invecchiato, Hammer. Ok. Ha solo 13 numeri, in realtà, ed è, a me è piaciuto veramente tanto, e l'ho letto pochi anni fa. È molto anni 80, è molto cyberpunk classico, eccetera, ed è molto Johnny Mnemonic. Questo me lo scrivo perché me l'ho scordato. Ne avevamo parlato quando ti avevo ricacciato Black Hammer, che è quello nuovo. Sì, ma non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo, esatto. Con la Hammer. Ok, come martello. Sì, sì, sì, no, Black, ma anche Hammer. quell'altro anche Black Hammer è... Sì, sì, sì, però non c'entra un cazzo, c'è una roba più supereroe. No, questo è la storia di un hacker, che però hacker vista appunto in un mondo in cui l'hacker ha un impianto nel cranio e si mette il filo ed entra nel web, letteralmente. È un po' Futurama quando va nel web e cosa. Vabbè, Jacopo, ti ho interrotto su sta roba qua. No, però... no, beh, era per dire, cioè, secondo me sto film è stato preso troppo sul serio quando è uscito. L'hanno devastato come critica e anche, mi sa, no, come botteghino mi sa che c'era da pari, esattamente a pari. Ha fatto, mi sa, esattamente il doppio del budget, che sarebbe, vuol dire che è andato a pari, perché avranno fatto un macello di marketing la Sony, cose strane. Sì. E quindi posso dire, lo stesso anno è uscito Ghost in a Shell, l'anime, e vabbè, L'esercito delle 12 scimmie, che è un film di fantascienza con i controcoglioni, e l'anno prima c'era, vabbè, a parte Time Cop, l'anno prima in realtà non è uscito una sega, forse, di fantascienza. Ok, però già il fatto che tu esci 12 scimmie e mi fai ritirare il mio commento, no, ok, è brutto, però, però cioè, nel è senso, carismatico, sì. Comunque, per dire, anche gli effetti speciali di Jurassic Park era uscito 2 anni prima, quindi non è che ha delle scuse vere per aver fatto... Vabbè, ho capito, però Jurassic Park, dai, è un altro livello, cioè... Sì, sì, però... Comunque io adesso ho guardato, cioè ho aperto delle pagine con i film usciti in quegli anni, e la maggior parte in effetti sono fantascienza, cyberpunk, veramente brutti, che magari non sono mai usciti, tipo Ghost in the Machine, un film tipo del 93, vabbè, Carnosaur, la distruzione, Kickpuncher, esatto, Kickpuncher, però ecco, qualche anno prima era uscito Alien. Cioè, comunque, la fantascienza era di moda, ed era una fantascienza con le palle quadrate. E era uscito anche Terminator, era già uscito il 2, Terminator 3, forse. E, insomma, non ha scuse per aver fatto un film così brutto, però il fatto che... Cioè, non lo so, è un brutto vintage, non so come dire. Cioè, un brutto che a noi nerd piace, e se comunque non ti piace ti fai 2 risate perché vedi un prete con degli impianti cibernetici che... è come... è un film brutto invecchiato bene. Cioè, è tipo, non so, un frutto marcio che piano piano diventa un vino, non lo so. Una roba fortuita, strana. Sì, cioè, non ha meriti particolari se non aver... Non lo so, mi piace. Si fa amare, si lascia amare. Esatto, mi sembra un film di una persona innamorata del genere, che ha voluto semplicemente questo è molto, molto bello, molto romantico, che ha voluto dipingere, cioè dare l'idea del suo, della sua visione di questo genere, ed è riuscita. È come se io adesso cominciassi a fare un film di fantasy con una sessione di D&D magari che ho amato, eccetera, e cioè ci vede dell'amore, poi gli attori no. No, vabbè, cioè, secondo me qualsiasi film può farti fare, può farti porre queste tre domande, è un bel film. Le domande sono: ma Ice-T e il delfino e Gesù? E Gesù. E queste due domande se le fate anche Sal. Cioè, secondo me, non lo so, cioè, in ogni film dove vedo Ice-T con dietro un delfino in un acquario, collegato con dei cavi a roba strana, non posso odiarlo. Va amato per forza. È bellissimo. Vuoi leggere i messaggi che ti ho mandato anche in per questo film? Era questo, sai, no? Ma, no, tu non lo sai. Sì, no, ho mandato anche questo. Tu non lo sai, ma nello scorso film, Andrea, ho mandato una roba tipo... Se ha sentito l'esplosione delle mie palle che cadevano dal terzo piano, sta cosa qua. A questo film... Ah no, che ho detto che mi fa ridere che c'è una pubblicazione a 320G. Ah sì, vabbè, molto questo sapio. È uno spoiler in realtà, però... Porca puttana, le pubblicazioni a 320G, che cazzo di pubblicazione è? Vabbè, niente, non volevo. Vabbè, non è uno spoiler, dai, questo è l'inizio del film. In realtà è la fine. Cioè, vabbè, dice che cos'è la memoria. Ah, che è una pubblicazione. Vabbè, sti cazzi, pubblicazione vuol dire qualsiasi cosa. Sì, è chiaro. E... va bene, dai. Volevate aggiungere qualcos'altro su questo film? Comunque direi che è consigliato per un pubblico consapevole di quello che andrà a vedere. Esatto. Cioè, non vi aspettate un film, non vi aspettate Matrix, ecco. Non vi aspettate un film. Esatto, sì. Aspettatevi un delfino con tipo un sonar attaccato, una parabola attaccata alla testa. È bellissimo che in questo film c'è Keanu Reeves, è come se avesse tipo tenuto per mano il cyberpunk dall'inizio, capito? Cioè, Keanu Reeves era lì quando è nato ed è lì ancora adesso, cioè in un gioco che si chiama proprio Cyberpunk 2077 basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, cioè tutto... Che però non è uscito ancora, mi dicevi. No, non lo rimandano di nuovo gli stronzi. Dito nella piaga. Forse, magari lo rimandano al 2021, così è, capito? Esce nell'anno di Johnny Mnemonic. E ci mettono NAS sottoscritto. Provoca NAS. Vabbè dai, ma non è proprio uno dei primi che ha fatto... Beh, non so se ha fatto prima il Dracula. No, sì, ha fatto prima Dracula, però... Allora, uno, due, tre... Merda, cioè no, ne ha fatti... È il 26esimo film che ha fatto, cioè... Ma che dici? Sì, già ne aveva iniziato 10 anni prima a fare film. Ma perché aveva fatto roba tipo Bill & Ted, roba lì, no? Sì, esatto, cioè nel senso... No, ok, niente, cazzata. Ok, è un cane, si vede che non la pagavano per questo film. Cioè, poi in Break l'ha fatto prima. Ah no, ok, allora niente. Allora niente, è un cane. È un cane, è evidente che è un cane. Vabbè, dai, ci sta. Perché Point Break è del 91. Sì. Dracula del 92. Bisogna vedere però quanti altri film ha fatto insieme, perché lui in quell'epoca faceva tipo 50 film all'anno, magari era un po' preso. Non è veramente. Questo ha recitato con la mano destra legata dietro, gli occhi chiusi. Cavolo, ma pure Keanu è in ogni film? Keanu ne ha fatto, ma ha fatto molte serie anche lui, comunque. Cazzo, devono far sequel di Constantine. Quello sì che è un bel film. Della serie TV dovrebbero fare. Non dovrebbero farlo con Keanu Reeves, dovrebbero farlo con l'attore della serie TV che è uguale a Constantine. Cioè, è lui, sì, sì. Infatti, secondo me hanno sbagliato a non metterlo in Doom Patrol al posto di quello lì. Vabbè, è vero, non posso dire chi è. Però una nota piccolina. Io non ho ancora visto Battle Royale, dove mi sa che c'è lui, c'è Takeshi Kitano come attore. Dovrò vederlo prima o poi. Ma non ti giuro, io Battle Royale, dai, quel film che ha ispirato tutto, cioè ha ispirato Fortnite, Hunger Games, tutto. Cioè. Non ho idea di cosa stai parlando. Vabbè, esiste davvero. È un film che si chiama Battle Royale degli anni 2000, giapponese, dove dei bambini si paccano di mazzate e si ammazzano fra di loro in questa lotta mortale. Va bene. È tipo un cult, cioè, che ha generato sta cosa del Battle Royale, no? Che stanno tutti quanti dentro una zona e si devono ammazzare per... Io così. Mi ricordo film del genere, ma erano molto... non erano giapponesi, erano trash e... Trash, sì, però è anche un cult, cioè, quello che ha generato sta... Che bello, cazzo, sai che mi sta intrigando. Non mi ricordo il titolo, però ricordo bene un film di sto genere che erano tipo, cioè, ogni nazione del mondo metteva un suo... Hunger Games. No, era proprio, cioè, letteralmente... Ah, forse ho capito, nazione... ma che c'era, tipo Sylvester Stallone, no? Che cazzo era? No, non mi ricordo, vabbè. Si ammazzavano, cioè, dovevano... Cioè, vabbè, sì, Hunger Games, Battle Royale, non so. Sì. Rimanere uno solo. Mi ricordo il titolo. Io ti giuro, ho scaricato sul mio PC, sul mio portatile, 10 anni fa, sul mio PC, ho scaricato Sonatine, che è un film di Takeshi Kitano, e ancora non l'ho visto. 10 anni che ho quel film. Ormai si sarà... Cioè, i bit sono sfaldati. È un comico lui. Non lo so, non penso che sia lo stesso di Takeshi's Castle, sinceramente. No, okay. O forse sì. Però lui, cioè, nel senso, nella vita cos'è? Un comico? È tipo un attore, presentatore... Boh. Cioè, ma fa robe leggere, in teoria, non fa... Ah no, è quello di Takeshi's Castle? No, è davvero lui. È quello che ha creato Takeshi's Castle? Cazzo, ma questo è ovunque, allora. E ha fatto un film con Ice-T. Coincidenze? Io credo di no. Waterstein. È un genio. Si chiama L'Isola della Morte. Si chiama. L'Isola della Morte. È un genio. Sì, anche lui comunque ha fatto veramente un botto di roba. No, però di regista cosa ha fatto? Achille la Tartaruga? Il mio che conosco io è Sonatine, ma perché non l'ho ancora visto. Non so. Allora, volevo fare un piccolo annuncio, ora che siamo in chiusura, e tra l'altro ha vinto un botto di premi, Takeshi Kitano. Non era questo l'annuncio. Che, in teoria, quando è che esce sta puntata? Niente. Peccato. Pensavo che la prossima sarebbe potuta essere Palm Springs, se... troppo presto. Troppo presto. Vabbè, tra due puntate proveremo a registrare Palm Springs se lo troviamo. Ma si trova. Va bene, dai. E se volete aggiungere qualcos'altro, parlate ora o tacete per sempre. Cosa ha fatto la ragazza? Non sceglierò mai più un film. No, in realtà guarda che è andata bene. Cioè, all'inizio pensavo peggio quando ho visto lui che mette il... Quando ho visto lui che chiama dall'albergo sul televisore, pensavo... cioè, veramente ho avuto molta paura. Poi, grazie a Dio, ho visto... Che cazzo ho visto? Ho visto AST e tutto è diventato più bello. Che cosa ha fatto? Io la tipa la conosco solo per Starship Trooper. Ah, ecco che ha fatto! Ha fatto tutti gli Starship Trooper. Tra l'altro, Mars Attack è di questi anni. Che non c'entra cazzo, però era per dire un altro film brutto. Okay. Film di fantascienza, belli. Lei ha fatto tipo tutti i Saw. Anche i Saw, è vero. Perché fa la poliziotta, tipo, sì, la poliziotta. Merda, lei ha fatto Dragon Heart, ma io la amo. Ma io sono innamorato di lei. Cioè, rega Dragon Heart, quello col drago enorme di gomma. L'avete mai visto quando eravate piccoli? Immagino di sì. Quello che il drago apre il cuore e lo dà alla persona per salvargli la vita e loro sono legati. È il motivo per cui Rick e Morty ha fatto... È vero. Saul Bundy. Ed è un film di quegli anni, non so adesso di che anno sia, però sarà di due anni, dal 96. Vabbè, eravate troppo piccoli forse. Cioè, è doppiato da Sean Connery il drago. Vabbè, comunque. Niente, vabbè, dai, grazie di averci seguito. Noi ci vediamo settimana prossima. Adesso stavo pensando di fare una pausa estiva, ma non lo so, vediamo. Ne parlo un po' con i colleghi e con gli sceneggiatori. E niente, ciao. Andate a vedere Johnny Mnemonic. Andate. Io stavo per uscire dalla chiamata.